Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone. Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo, già lo sapete, è un programma in italiano, non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica Radio Libera barcellonese, Contrabanda FM 91.4 sul litorale catalano, in streaming all over the world alla web www.contrabanda.org. E infine vi ricordo che potete scaricare anche i nostri podcast dal blog zibaldone.contrabanda.org, podcast disponibili da un sacco di anni, da una dozzina d'anni esattamente, dal marzo del 2011. E a proprio a marzo siamo anche quest'oggi, è anche l'ultima puntata di marzo, l'inizio della primavera, insomma tante cose, un altro venerdì insieme, due ore di musica, due ore di intervista, due ore di parecchie sorprese. Cominciamo con la musica, e visto che la settimana scorsa abbiamo fatto questo rapporto Italia marzo 2023, continuiamo con altre news che sono fresche, ci arrivano da bel paese, e cominciamo con Domenico Imperato. C'era la luna, anzi le lune erano due all'orizzonte. C'era il temporale nella pineta, il gran concerto di cicale e le ragazze felici ad aspettare sul lungomare mentre mi assale la litania di un piano. In questa estate sentimentale c'era uno che cantava come un dio, chi si prendeva a pugni e c'ero anch'io, che conoscevo bene piogge temporali, che avevo un cielo nuovo e nuovi piani sul lungomare. Sale la litania di un piano bar sul lungomare a navigare in questa estate sentimentale, disteso a mare blu, vertigini c'eri anche tu, disteso era perso un'altra volta, negli occhi aveva la sabbia di una tempesta, mi raccontava la sua vita e i suoi dolori, io l'ascoltavo con molte respirazioni, con quel gran caldo un poco faticavo, prendevo appunti ma in fondo mi bastavo sul lungomare ad ascoltare la litania di un piano. strati, sentimentale, in questa estate, sentimentale. Lui è Domenico Imperato, sentimentale il titolo di questo brano con cui abbiamo aperto lo zibaldone di questo 24 marzo 2023. Banzo, banzo, banzo, bentornato a Zibaldone, più ergonomico che mai, ti do il bentornato questo pomeriggio primaverale, più che estivo come la canzone che ci siamo appena sentiti, Domenico Imperato. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Steven, anche a te, non sei da meno. Eh sì, è primavera, questa bella aria primaverile, abbiamo preferito cominciare la puntata con un allegro fischiettio piuttosto che con la litania di un piano bar, citando anche il testo della canzone di Domenico Imperato, ma abbiamo anche evitato una tradizione che forse stava diventando troppo ripetitiva, cioè di cominciare la puntata primaverile, la prima puntata primaverile col primo giorno di primavera dei Dick Dick, che è comunque una bellissima canzone, e forse diciamo ci siamo solo presi una pausa, diciamo lasciamo il terreno a Maggese per un anno, poi alla prossima primavera ci pensiamo, anche se quest'anno poi l'inverno è durato pochissimo, vabbè. Vabbè, insomma, non ci sono più le mezze stagioni. Comunque, a proposito di musica italiana, abbiamo sentito questo brano di Domenico Imperato che anticipa il suo nuovo album, ci sta lavorando da un po', uscirà prossimamente, sono già usciti alcuni single come appunto questo sentimentale. Domenico Imperato, tra l'altro, ricordo che è stato in un paio di occasioni nostro ospite prima della pandemia, è venuto a suonare a Barcellona, è passato dai nostri studi, quindi insomma aspettiamo con ansia il suo nuovo disco. Domenico Imperato che è abruzzese e ci spostiamo un po' più in là, ma siamo sempre in centro Italia, a Rieti, in un paesino che tra l'altro è a pochi chilometri dal confine con l'Abruzzo, per parlare di Carlo Valente. Carlo Valente è un altro giovane artista italiano molto interessante che ha fatto cose molto belle. Nel 2017 era uscito un suo disco intitolato Tra l'altro, poi ha collaborato in vari progetti che sono stati anche premiati con le Targhe Tenco, come Voci per la Libertà o Viaggio in Italia degli Adorizza, e proprio all'inizio di questo mese di marzo è uscito un suo nuovo lavoro discografico intitolato Metri Quadrati. Ecco, noi da Metri Quadrati, Banzo, ci andiamo a ascoltare una canzone che si intitola Mentre qualcuno nasce a Belgrado. Lui è Carlo Valente. Sera arriva per tutti, anche per quell'albero che guardi, che so, la domenica, mentre tu affoghi in città, perché si affoga in città. Pensa che quel piccolo pezzo di mare in cui hai benedetto la tua estate, sempre ad ogni onda e si muove per ogni marea, che sia un giovedì di novembre o magari prima di una buona idea. Madre chiuso, quando sei a sola dappertutto, e che quando trattieni il fiato esiste tutto, mentre nessuno lascia Belgrado, o mentre compri il pane, mentre nessuno lascia Belgrado, o mentre compri il pane, mentre nessuno lascia Belgrado, o mentre compri il pane, mentre qualcuno lascia Belgrado. Carlo Valente, mentre qualcuno nasce a Belgrado, il secondo brano della puntata di quest'oggi, un po' di news che ci arrivano dall'Italia, Banzo, un po' di cantautori nuovi per continuare la carrellata che abbiamo proposto anche la settimana scorsa. Mi hai ingannato, Steven, avevi detto che ci saremmo spostati dall'Abruzzo al Lazio e non c'è ovviamente la dogana. E invece per andare a Belgrado, che viene menzionata in questa canzone, sì, abbiamo bisogno del passaporto. Io purtroppo non ce l'ho con me, quindi mi tocca rimanere qui. Comunque vedo che per la scelta musicale ti sei lanciato molto su... ti sei fatto un po' prendere la mano dalla primavera, perché un'altra canzone con fischietti all'inizio. Comunque un brano bello, effettivamente. Non è che i fischietti corrispondessero a un'allegria vuota, perché la canzone comunque ha un bel tiro, una bella energia. Eh sì, e anche la prossima che ascolteremo. Però a proposito di Belgrado, in questa puntata viaggeremo un po', infatti abbiamo pensato di intitolare lo Zibaldone di quest'oggi Così lontani, così vicini, anche perché è il titolo di un libro di cui parleremo tra poco. Il sottotitolo è Italiani all'estero per lavoro nel biennio pandemico da Covid-19, uscito da pochissimo per i tipi della Futura editrice, curato da Francesco Carchedi, un libro collettivo che appunto riflette su insomma gli effetti della pandemia nelle comunità di italiani all'estero. Si parlerà anche di Barcellona, perché oltre che con Francesco Carchedi ne parleremo con Daniele Comberiati, che ha scritto proprio il capitolo riguardante gli italiani a Barcellona e in Spagna. Ma poi Così lontani e così vicini in realtà anche riguardo alla musica, perché oltre alle news con cui stiamo aprendo questa puntata avremo degli omaggi, un omaggio a Mina, o meglio alle canzoni di Mina cantate in spagnolo da diversi artisti per la sezione di Italia Otra Parte, e poi un omaggio a Gualtiero Bertelli, uno dei grandi cantautori della scena italiana, soprattutto in lingua veneta, ma non solo, attivo dagli anni 60, che proprio la settimana scorsa ha suonato qui a Barcellona per il Festival Barnasanz Cose di Amilcare. Quindi andremo a riscoprire alcune delle canzoni che ci ha regalato Gualtiero Bertelli negli ultimi ormai praticamente 60 anni di carriera. Banzo, andiamo ad ascoltarci un'altra news e rimaniamo sempre in centro Italia, in questo caso a Roma, dove troviamo Lepre. Lepre è il nome artistico di Lorenzo Lemme, che è attivo sulle scene da molto, come batterista, come percussionista, è da anni ormai membro stabile della band di Lucio Leoni, un artista che insomma è da tenere sott'occhio, perché è davvero uno dei più interessanti della nuova scena italiana. Tra l'altro Lemme è anche diventato ormai cantautore, perché è uscito da pochi mesi il suo primo album come solista, che si intitola Malato, e noi ci andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo che è uscito appunto da Malato e che si intitola semplicemente Capannone. Nello spazio che va dopo la virgola, e così non siamo mai del tutto arrivati al punto. Non ti ricordi qual era il discorso, non ti ricordi più il senso, e senza avere orientamento non sai come si esce da questo labirinto. Con gli esami, ma con le manifestazioni, con i concerti, le serate fuori, con le sconfitte alle elezioni. Io non mi ricordo se ero un genio o un deficiente, sono troppo indaffarato a fare finta. futuro, una tristissima caccia al tesoro. Non volevamo che vincessero loro, ma tanto era sicuro. Io mi ricordo quando ci siamo spenti e non abbiamo più ballato, abbiamo solo un po' sognato. Stesi in vela fuori un capannone abbandonato. Eccoci qui nuovamente in diretta con Zibaldone e ora parliamo di una tematica, diciamo, che tutti abbiamo vissuto e che ci interessa da vicino, ossia l'impatto in fin dei conti della Covid sulle nostre società e in concreto sulle comunità di italiani all'estero. È uscito da pochissimo un volume a cura di Francesco Carchedi intitolato Così lontani, così vicini, italiani all'estero per lavoro nel biennio pandemico da Covid-19. È un volume collettivo che cerca appunto di studiare una decina di casi, tra cui anche la Spagna, e riflettere su delle vicende molto vicine e su cui ancora tra l'altro insomma esistono pochi studi. Voglio subito dare il benvenuto a Francesco Carchedi che ci accompagna quest'oggi qui a Zibaldone. Francesco, benvenuto, un piacere averti con noi. Buongiorno a tutti. E poi voglio dare anche il benvenuto a Daniele Comberiati che ha collaborato con un capitolo su Barcellona e sulla Spagna, questo volume. Daniele, bentornato a Zibaldone. Grazie Steven. Mi fa molto piacere essere tornato. Sì, è un piacere averti con noi e innanzitutto Francesco Carchedi lo presento anche ai nostri ascoltatori, docente presso la Facoltà di Sociologia, Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione della Sapienza di Roma, studia da tanti anni i processi migratori, le politiche sociali, i servizi rivolti agli immigrati e anche la tratta di esseri umani. Ha portato avanti e coordinato una decina di indagini sul fenomeno del caporalato nel settore agroalimentare nelle principali regioni meridionali e collabora appunto anche con l'Osservatorio Placido Rizzotto della FLAI CGL. Daniele Comberiati invece è professore associato in italianistica all'Università Paul Valéry di Montpellier 3, vive tra Barcellona e infatti i nostri ascoltatori di Zibaldone l'hanno già conosciuto, ci ha parlato di vari dei suoi libri negli ultimi anni e il sud della Francia e si occupa di letteratura italiana contemporanea, teorie postcoloniali, fantascienza e romanzi grafici. Francesco, partirei con te per parlare un po' di questo volume, ossia un po' raccontare anche ai nostri ascoltatori come avete sviluppato queste ricerche, perché si tratta di un tema difficile, mancano i dati, a volte si tratta di percezioni anche dal punto di vista scientifico e dei dati che offrono i diversi paesi, voglio dire, insomma non è facile, e quindi come avete proceduto per cercare di affrontare questa ricerca? Allora, intanto occorre dire che è un'indagine che nasce dal Ministero degli Esteri italiano, dal settore che si occupa proprio delle comunità italiane all'estero e coordinata dall'ufficio CGE che è proprio, come dire, costituito da funzionari e da rappresentanti delle parti sociali che nel mondo operano in favore delle comunità italiane all'estero. Questo diciamo incipit è importante perché attraverso loro siamo riusciti a risolvere uno dei problemi grossi che si pone in genere per questo tipo di ricerche a livello internazionale, ovvero l'individuazione delle persone, degli studiosi, degli operatori sindacali, degli esperti che operano in questo settore, per individuarli e per coinvolgerli nel progetto, appunto come in questo caso, di definire un libro, o meglio dire un rapporto, sulle condizioni vissute dalle comunità italiane distribuite su tutto il mondo, perché come è noto l'emigrazione italiana è stato un fenomeno straordinariamente importante e lo è tuttora per il nostro paese, e quindi attraverso questi contatti si è messo a punto il gruppo di ricerca. Quindi ha risolto in tal maniera uno degli elementi metodologici, diciamo, importanti che nascono per gli studi internazionali, che sono al di fuori, diciamo, del mondo accademico, dove è relativamente più semplice individuare colleghi delle altre università per fare questo tipo di studi. Effettivamente la ricerca, appunto come tu spiegavi, è molto complessa e siete riusciti a trovare appunto dei canali. Da questo punto di vista avete scelto i paesi dove l'emigrazione, diciamo la comunità italiana, è più solida, è più numerosa, no? Penso all'Argentina, sì, al Brasile in America Latina, penso alla Germania, ma anche appunto al Belgio, alla Francia e alla Spagna in Europa. Esattamente. Sono state scelte una decina di paesi dove le comunità italiane sono storicamente più numerose e più longeve dal punto di vista temporale, e in questi paesi sono state, con il criterio che ho appena espresso, una decina di sindacalisti, studiosi dei fenomeni migratori e esperti che hanno accettato insomma di essere coinvolti per la realizzazione di questo progetto. È durato molto tempo, quasi un anno alla fine, perché non è stato semplice, anche per i motivi che accennavi tu all'inizio, cioè la mancanza di dati statistici, la mancanza di osservazioni, diciamo anche di natura qualitativa, ufficiali, e questi, diciamo, due grossi scogli metodologici sono stati superati facendo un testo per lo più di carattere qualitativo. Cosa vuol dire per lo più di carattere qualitativo? Abbiamo affidato in sostanza alle conoscenze delle persone che abbiamo coinvolto la ricerca di eventuali dati che potevano essere stati prodotti all'interno del singolo paese. Questo, come nel libro poi è stato anche detto in apertura, non è stato sempre possibile. Perché? Perché ci vorrà probabilmente molto tempo prima che all'interno di ciascun paese si potranno avere dei dati di natura statistica relativa, ad esempio, alle morti che ci sono stati per Covid sotto il profilo della nazionalità di appartenenza o della nazionalità di origine per quanto riguarda, appunto, i discendenti dei migranti dei decenni precedenti. Questo elemento ha fatto sì che il ragionamento che è stato poi fatto, dove nell'introduzione io cerco di spiegare come abbiamo proceduto, abbiamo come dire pensato a dei comportamenti che potevano essere gli stessi all'interno dei diversi paesi, ovvero sia che la diffusione del Covid è stata diversa e ha avuto un impatto diverso a secondo delle diverse stratificazioni della popolazione, con l'ipotesi poi avvalorata da una serie di studi internazionali a cui abbiamo avuto accesso che le componenti più basse, meno abbienti della popolazione sono state quelle che hanno subito maggiori danni dalla pandemia, mentre le classi, diciamo, medio-alte sono state quelle, per la loro capacità anche di apprendere, di valutare le informazioni che man mano i vari paesi esternavano con una visione preventiva, avessero maggior capacità di assorbire queste informazioni e quindi comportarsi di conseguenza. Quindi l'informazione più alta e maggiormente recepita da parte delle classi medio-alte, una scarsa informazione e mal recepita per le classi più basse delle stratificazioni in ciascun paese considerato. Essendo l'immigrazione italiana un'immigrazione di lungo periodo, è plausibile che questa, diciamo, ripartizione, queste stratificazioni all'interno delle popolazioni dei singoli paesi studiati possa essere, come dire, possa aver avuto la stessa diversa incidenza, ovvero la popolazione più fragile, più vulnerabile, ha subito maggiormente gli effetti della pandemia e a salire, diciamo, sulla scala sociale gli effetti sono stati minori. Quindi maggiore sono le fasce vulnerabili e maggiore è l'effetto pandemico. Maggiori e più alte sono le classi e minore è stato l'effetto pandemico. Questo ci ha permesso di comprendere come, ad esempio, i nuovi migranti italiani che si sono, come dire, allontanati dall'Italia negli ultimi anni e che ancora non hanno trovato sistemazioni solide nei paesi di emigrazione, sono state anche quelle che hanno subito maggiore l'effetto pandemico, mentre le classi, i ceti che da maggior tempo sono nei paesi considerati, ne hanno subite in minor quantità e qualità. Certo, perché effettivamente rispetto per esempio all'emigrazione ormai di seconda, terza o quarta generazione degli Stati Uniti, dell'Argentina, del Canada, che è un altro caso di studio che è compreso in questo volume, ma anche dell'Uruguay o del Brasile, in Europa abbiamo paesi dove c'è anche un'immigrazione, diciamo, più recente e, se così vogliamo dire, più liquida, e questo evidentemente immagino che da un lato faccia riferimento anche a quello che tu ora spiegavi, Francesco, ma dall'altro anche la questione della difficoltà di avere dei dati su cui basare appunto queste ricerche. Sì, certo, l'ho detto poc'anzi, quindi diciamo che l'orientamento metodologico è stato quello che ho cercato di spiegare sinteticamente adesso, e questo è stato anche confortato, diciamo, dalla bibliografia internazionale che comunque in molte parti del mondo sono state analizzati i casi dei decessi, e quindi c'è una sorta di costante che è possibile evidenziare, ad esempio sugli studi che sono stati fatti in Italia per quanto riguarda i decessi da Covid, gli studi che sono stati fatti in Inghilterra, gli studi che sono stati fatti in Canada e negli Stati Uniti, ma anche in alcuni paesi africani e anche ovviamente in alcuni paesi asiatici. Ciò che rimane costante è il fatto che i decessi sono avvenuti principalmente nelle classi più povere, laddove le informazioni non erano sufficientemente acquisite e laddove le persone vivono in condizioni di emarginazione sociale o anche di isolamento spaziale. Perché? Perché le grandi metropoli del mondo, Lagos, Hong Kong, ma anche Londra, nei sobborghi più poveri si vive in maniera isolata, ma anche Roma ovviamente o Milano, ma anche Berlino, perché traspare nel racconto, nella riflessione fatta dai colleghi tedeschi, laddove l'emarginazione sociale è stata più forte e laddove la composizione della popolazione emarginata comprende migranti appena arrivati o migranti che non sono riusciti a integrarsi adeguatamente e dove le politiche sociali non sono state, come dire, efficaci, lì le morti sono state più alte. Quindi molti ispanici nel Nord America, molti migranti africani e asiatici in Europa e molte persone che appena arrivate, anche turisti che si sono trovati in paesi esteri con sistemi sanitari, come dire, non sufficientemente adeguati, sono rimasti in qualche maniera intrappolati sia per acquisire informazioni a causa anche della lingua e sia per, come dire, incapacità di orientarsi adeguatamente nei sistemi sanitari locali, ovvero dei paesi dove erano andati per turismo. Quindi sono rimasti bloccati per diverso tempo e questo ha provocato fortemente dei disagi e anche contagi, come dire, inaspettati. Uno dei capitoli del libro è dedicato a un caso, se così vogliamo dire, forse più particolare, no? Se pensiamo alle comunità italiane, che è quello della Cina e in concreto di Shanghai, no? E tenendo poi conto di come si è sviluppato il Covid-19, delle politiche portate avanti in questi ultimi 3 anni dal governo cinese, insomma è un caso sicuramente che desta curiosità. Ecco, qual è stata la situazione degli italiani a Shanghai e in Cina? Da quanto avete potuto voi capire anche dalle vostre ricerche? Allora, questo pezzo su Shanghai è stato fatto da una collega dell'Università di Salerno, perché da anni studia, diciamo, le dinamiche migratorie degli italiani verso la Cina, soprattutto su Pechino, Hong Kong e Shanghai, e dall'altro studia anche le comunità cinesi in Italia. Il punto importante su cui si chiama Grazia Moffa, questa docente dell'Università di Salerno, ciò che emerge dal suo capitolo è che gli italiani, ovviamente di Shanghai soprattutto, in parte sono in questa grande, bellissima città da più tempo e quindi diciamo che le persone che erano che sono da più tempo a Shanghai hanno, come dire, orientato gli italiani che erano di recente in migrazione e dove la comprensione della lingua locale era molto più ardua, mentre la lingua, per esempio, veicolare inglese era più facile, ma non sempre le comunicazioni avvenivano nella doppia lingua, ovvero cinese e inglese come lingua veicolare, soprattutto a Shanghai. Quindi il punto di vulnerabilità è stato quello di avere un quadro, diciamo, esatto di ciò che accadeva. Non solo per il lockdown che ne era conseguito, ma anche cercare di capire quali erano le eventuali possibilità di prevenire il contagio e la possibilità di approvvigionamento dei generi alimentari che occorreva in qualche modo avere per il lungo periodo di lockdown. Su questo il capitolo su Shanghai è interessante anche perché gli italiani non sono tantissimi, però hanno delle strutture organizzate al proprio interno e quindi queste strutture organizzate, diciamo queste associazioni, hanno svolto un ruolo importantissimo insieme all'ambasciata italiana e il consolato di Shanghai e di Pechino. E è stato possibile appunto attraverso anche la rete di queste associazioni interloquire con le istituzioni e trasmettere ai loro associati o attraverso il passaparola quante più informazioni era possibile veicolare. Il capitolo appunto rileva anche ovviamente delle criticità. Perché? Perché questo, diciamo, era anche un po' inevitabile. Perché? Perché quando si emigra ci si trasferisce per un periodo breve in un altro paese, non sempre le autorità consolari hanno menzione certo. di questo trasferimento. Quindi il punto è, tornando leggermente indietro nel ragionamento precedente, è che la vulnerabilità maggiore si è riscontrata tra coloro che era minor tempo di permanenza nel paese dove la pandemia ha avuto un impatto forte. Quindi la temporalità di permanenza, che in genere è un indicatore importantissimo per chiunque studia i processi migratori, si è rivelato un forte punto di debolezza anche nel periodo pandemico. Quindi una parte, diciamo, delle persone che erano si trovavano in Cina, soprattutto Shanghai, Hong Kong e Pechino, nel periodo pandemico, una parte di loro non riuscivano ad avere le informazioni adeguate e né ufficiali e né quelle, diciamo, informali delle associazioni di connazionali che si trovavano in quel momento in queste tre città che ho citato. Perfetto, grazie Francesco perché ci hai delineato un quadro molto completo e poi abbiamo fatto questo focus sul caso cinese che sicuramente insomma è interessante ed è sta curiosità. Facciamo una breve pausa musicale e ci ascoltiamo un brano che ha a che fare con le relazioni tra Italia e Spagna dal punto di vista artistico e poi rientriamo qui e continuiamo questa chiacchierata e parliamo appunto della situazione spagnola insieme a Daniele Comberiati. En un día muy claro, yo no sé si a una tierra lluviana se van a cambiar, no se va. Con esper vez que a trovar l'alegria se'm va anar va donar-me la mà. Jo no sé quina cosa em diria se hem d'anar cel enllà i mai fa bon dia. Digue'm si mai conès perd. És que ha trobat l'alegria se'n va anar va donar-me la mà. Cosa em diria se em va anar cel enllà i mai més no tornarà. E questa era Mina, se'n va anar, in catalano. Mina è un po', insomma, l'ascolteremo in questa puntata di Zibaldone, dopo ci torneremo, ma abbiamo voluto fare questo piccolo omaggio a Mina appunto anche per questa versione particolare che si lega molto alla Spagna e a Barcellona. E a questo proposito vorrei domandare a Daniele un po' sulla sua ricerca, no, contenuta in questo volume. Daniele, tu che vivi a Barcellona, ovviamente che conosci bene come tutti noi la realtà della comunità italiana nel capoluogo catalano, ma in generale anche nella Spagna, e insomma, a partire dalle riflessioni che ci ha fatto Francesco riguardanti un po' il panorama generale, le linee un po' di quello che è successo in diversi paesi, ecco, che cosa c'è di simile, cosa c'è di differente nel caso spagnolo che tu hai studiato più da vicino? Sì, guarda, effettivamente il caso secondo me spagnolo e barcellonese in particolare ha degli elementi differenti rispetto alla globalità delle migrazioni italiane. Forse, guarda, più cose in comune con Shanghai che con paesi come la Francia, il Belgio e la Germania, per un semplice motivo. Gli italiani chiaramente sono sempre stati presenti come comunità a Barcellona, però in Spagna non c'è stata un'immigrazione di massa per varie ragioni, anche semplicemente sociopolitiche, storiche, come quella degli italiani appunto in Germania, in Belgio. Io poi avevo letto anche l'articolo che avevi scritto tu sulla Spagna nel volume del Molino, Viaggio tra gli italiani all'estero, no? Si citavano delle cifre che secondo me sono indicative, cioè negli anni 90 c'erano 27.000 italiani, almeno quelli che erano registrati, ma all'epoca era più facile perché poi i dati della comunità europea venivano meno coperti, diciamo, quindi, e oggi ce ne sono 250.000, quindi è una migrazione molto recente. E poi tra l'altro sempre la questione, Daniele, no? Che spesso insomma, se ne parla, la differenza tra i dati che constano alle istituzioni italiane all'estero, ossia il registro dell'AIRE, e invece quelli che poi sono magari invece gli italiani, in questo caso gli stranieri registrati nei comuni spagnoli. A volte c'è una differenza insomma anche notevole, nel caso della Spagna ci sono, adesso vado un po' a memoria, tra i 250.000 italiani residenti secondo l'AIRE e più di 340-350.000 secondo invece il ministero spagnolo. Certo, perché poi essendo comunità europea non c'è neanche tutta questa necessità, no, di iscriversi all'AIRE dal punto di vista amministrativo, legislativo, diciamo così. Questo secondo me è stato particolare nel Covid per un motivo. Francesco faceva riferimento alle generazioni più anziane, magari anche più povere, no? Che erano andate all'estero a fare un certo tipo di lavori manuali, che vivevano magari con una pensione anche non alta e che sono state le prime vittime del Covid, o comunque le vittime più toccate, no? In Spagna la comunità è relativamente più giovane, anche proprio come età media, Questo secondo me è anche interessante, no? Da un punto di vista proprio statistico da analizzare. E l'altro elemento, questo è un elemento più psicologico, io mi sono approcciato, ecco, a questo capitolo con i mezzi che vengono poi dalla mia esperienza, quindi da un lavoro che magari è più letterario, legato alla costruzione dell'immaginario culturale, meno sociologico puro, ecco, almeno diciamo così. E una cosa interessante è stata, questo l'avevo notato anche parlando con dei miei coetanei che erano rimasti in Italia, è che molto spesso chi era in Spagna, fra gli italiani, non aveva genitori o addirittura nonni, no? Nella stessa città. Ora, questo che cosa comporta? Comporta che quando poi ci sono state delle piccole aperture nelle uscite, parlo quindi di aprile-maggio 2020, quindi c'era la possibilità, in Spagna il governo aveva creato delle fasce orarie, no? Per poter uscire, adesso non me le ricordo più con precisione, però mi sembra che le persone sotto i 65 anni potessero uscire tipo dalle 16 alle 18, non mi ricordo esattamente. Sì, qualcosa del genere, sì. Qualcosa del genere, mi ricordo che era il pomeriggio. È chiaro, se poi tu magari devi vedere anche tuo padre, tua madre, tuo nonno che sono anziani, hai molte più reticenze, no? Uscire anche se puoi, perché all'epoca poi non si capiva ancora benissimo che cosa fosse il Covid, l'idea del vaccino sembrava lontana. Hai sempre, anche se hai bisogno di uscire, ti crei una serie di scrupoli rispetto alla tua famiglia. Se questi familiari non li hai in città, semplicemente lo fai un pochino più a cuor leggero. Questo è inevitabile, secondo me, nella gestione quotidiana proprio del Covid, no? E questo credo che sia stato un elemento interessante. Poi c'è un altro discorso, questo lo sai bene anche tu, perché ne c'hai lavorato e ne parlate anche spesso in radio, no? Il problema in Spagna poi del caro affitti, e soprattutto a Barcellona. Ora, per una comunità come quella italiana, dove comunque molti membri sono precari, chiaro, l'affitto molto alto in tempo di Covid ha creato dei problemi. È vero, il governo ha messo un blocco che era doveroso, necessario, però chiaramente questo psicologicamente crea dei problemi, no? Non è un caso che io adesso ho visto che l'area non ha ancora, almeno a mia memoria, non ha ancora reso pubblici i dati dopo il 2020, però ecco, non mi stupirebbe francamente se i dati fossero resi noti adesso, ci fosse per la prima volta dopo anni una leggera riduzione degli italiani a Barcellona, o comunque in generale degli italiani in Spagna, non sarebbe così assurdo. Quindi questa è una cosa che mi ha fatto riflettere, perché chiaramente, insomma, molte persone si sono create problemi nel mio intorno, nel mio gruppo di conoscenze, di amicizie. No, sentite molte di storie di persone che poi ad un certo punto hanno deciso di rientrare per vari motivi, sia di vicinanza alla famiglia, ma anche semplicemente di possibilità economiche. Sì, beh, certo, questo è una cosa su cui immagino bisognerà attendere ancora del tempo per avere dei dati affidabili, no? Che riguardino ovviamente Barcellona e la Spagna, ma che vadano anche al di là. E da questo punto di vista ti lancio una domanda che poi vorrei anche rivolgere in seconda battuta a Francesco per uno sguardo più generale. E sarebbe a dire, una vostra opinione, ovviamente, se possibile, ci muoviamo un po' sulle sabbie mobili, perché dovremo aspettare il futuro per avere delle risposte certe, sugli effetti, diciamo, della pandemia, diciamo, sulla long durée, pensando soprattutto sulle condizioni lavorative e anche quelle psicologiche, in questo caso ovviamente della comunità italiana, ma immagino che molte di queste riflessioni possano essere più ampie nel congiunto della popolazione, tanto in Italia in realtà come negli altri paesi. Ossia, tu adesso, Daniele, giustamente ci dicevi, vedremo se gli effetti della pandemia si ripercuotono anche in futuro su magari una diminuzione del numero degli italiani residenti in Spagna, oppure no. Ecco, ma invece per quanto riguarda la condizione lavorativa e psicologica, dopo le vostre ricerche potete trarre magari delle conclusioni o delle previsioni in vista del prossimo futuro? Se volete inizio io e poi lascio, certo, la parola a Francesco. Prego. Per facilità. Guarda, effettivamente è vero che sarà complicato, noi ci siamo, come dici tu, ci muoviamo sulle sabbie mobili, perché poi senza dati è sempre complicato, a volte i dati smentiscono, no? Anche delle impressioni. Allora, io ho sempre pensato che il virus, in generale questa pandemia, più che sconvolgente, è stato una sorta di sottolineatura, no? Di alcune rotture della società. Penso alla sanità, cioè cioè avevamo davvero bisogno di un virus per capire che chi lavorava nella sanità era arrivato al limite delle ore possibili, della fatica possibile, e che erano pagati poco, la scuola, no? Penso, cioè c'è bisogno di un virus per capire che non è possibile fare lezione a 25 ragazzi in un'aula e che per fare una pedagogia decente devono essere meno, cioè nel senso sono cose che in realtà si dicono almeno dagli anni 70, ma almeno in realtà anche da tempo. Quindi cioè, da questo punto di vista mi colpiva chi vedeva nel virus come una novità per la società. Forse ha messo chiaramente in evidenza alcuni problemi, abbiamo parlato prima del caro affitti e tutto il resto. Io purtroppo penso che questo discorso del telelavoro sia un po' come il discorso dell'arrivo di internet in alcuni contesti lavorativi negli anni 90, no? In Italia gira sempre una sorta di barzelletta nel mondo dell'editoria di un tipo che tornava dall'America dove aveva fatto un corso d'aggiornamento e tutto contento va in una casa editrice e dice: ah, guardate, con questo nuovo programma di impaginazione potrete impaginare nel tempo in cui oggi impaginate un libro ben 3 libri. Finché uno alza la mano e dice: sì, scusate, ma quindi ci pagano 3 volte tanto? Dice: no, ma quindi lavoreremo 3 volte in meno? No. Dice: vabbè, allora chi ci guadagna? L'editore, cioè i lavoratori producono di più, ma internet non li aiuta. Quindi ho l'impressione che purtroppo il telelavoro, se non viene gestito bene da organi statali, quindi se non diventa uno strumento nelle mani della comunità, della collettività, diventa un rischio di grandissima presa in giro. Guarda, lo sto vedendo in questi giorni con il sciopero in Francia, sai, per la legge, certo, delle, certo, pensioni che Macron ha imposto, diciamo, al Parlamento. Beh, alcuni colleghi fanno lezioni online, però capisci che così praticamente stiamo dicendo: beh, che si faccia sciopero o meno, tanto non ti blocca niente perché facciamo lezioni online, quindi lo sciopero perde di senso. Esattamente, esattamente. Sì, sì, sì. I scioperi anche dei treni, degli aerei, tanto non c'è più bisogno di spostarsi, quindi scioperate pure, il sistema continua ad andare avanti. Ecco, questo è secondo me un po' un problema su cui dovremmo riflettere. Sono rimasto colpito, cioè immaginavo che molte parole dei politici in quei giorni, lo stesso Macron ha detto che la sanità doveva passare ad essere pubblica e senza nessun discorso sul budget. Chiaro che erano discorsi opportunistici, però sono rimasto comunque colpito nella mia ingenuità, forse, del fatto che poi il volta faccia sia stato così rapido, cioè è bastato neanche un vaccino, mezzo vaccino per ritornare a prima, insomma, ecco. Sì, sì, no, certo, molte delle questioni che tocchi ovviamente hanno a che fare con dei cambi importanti della nostra società che vanno al di là della pandemia, come appunto le nuove tecnologie. Adesso si parla molto di intelligenza artificiale, eccetera. Ma volevo sentire anche l'opinione di Francesco al riguardo, su questi effetti più a medio-lungo termine, diciamo, della pandemia. Se possiamo già dare qualche previsione o almeno parlarne con qualche idea, anche se poi vedremo i dati se le confermeranno queste idee in futuro. Sì, io molto brevemente, è chiaro che sul lungo termine non siamo in grado di fare grosse valutazioni, ma ciò che per esempio a me mi ha colpito, e l'ho accennato anche Daniele, è il ruolo che ha svolto, diciamo, il servizio sanitario da una parte e il ruolo che hanno svolto i governi dei diversi paesi nell'immettere risorse economiche per alleviare e per sostenere, diciamo, non solo l'economia in generale, ma per sostenere anche le diverse categorie più esposte agli effetti negativi della pandemia, categorie, diciamo, di lavoratori, categorie di occupati. Per quanto riguarda l'aspetto sanitario, ciò che è emerso è stata una prima fase dove si è scoperto con forte evidenza che laddove i sistemi sanitari sono stati gestiti, come dire, dal servizio pubblico e quindi in una ottica universalistica, hanno prodotto maggiori effetti, diciamo, di assistenza, di protezione sociale. L'abbiamo visto anche all'interno dell'Italia, laddove i sistemi regionali erano più orientati alla privatizzazione hanno avuto, diciamo, più sono stati meno capaci, meno efficienti nel rispondere alle esigenze di prevenire i contagi, soprattutto nei primi mesi, nelle prime fasi pandemiche. Quindi questo ha dimostrato che anche per il futuro è necessario che ci sia una visione universalistica di queste pandemie. Perché? Perché l'universalismo, l'orientamento universalista è quello che vede la popolazione come, come dire, referente della protezione statale e non, come dire, la sua segmentazione interna con le diverse possibilità di accesso ai sistemi sanitari sulla base della loro posizione economica categoriale. L'altro aspetto è stato quello, diciamo, che io definirei di natura keynesiana, nel senso di immettere sul mercato del lavoro e nei settori più penalizzati, diciamo, dalla crisi pandemica, risorse aggiuntive che hanno permesso da una parte di sostenere, diciamo, i lavoratori e le aziende laddove i rapporti di lavoro erano formalizzati, ovvero laddove i rapporti di lavoro erano e sono configurabili come rapporti standard di lavoro, come rapporti sindacalizzati, mentre ci sono state grosse difficoltà laddove, soprattutto in quei comparti settoriali come il turismo, come anche la stessa assistenza sanitaria, in agricoltura, dove maggiore sono le sacche di lavoro informale, o nella piccola impresa commerciale, dove molto spesso i rapporti non sono standard, i rapporti di lavoro non sono standardizzati, ma sono spesso informali. Ecco, nella fascia di informalità le difficoltà sono state maggiori. Perché? Perché i rapporti informali di lavoro hanno dimostrato che da un punto di vista della protezione che lo Stato poteva accordare a questi lavoratori non è stato possibile, perché un lavoratore senza contratto di lavoro in sostanza è inesistente per eventuali forme di protezione di natura pandemica. È stato molto interessante da questo punto di vista il capitolo fatto sull'Uruguay da Franco Manno, e brevemente lo vorrei ricordare. Sì. Lo Stato dell'Uruguay ha fatto due cose molto importanti. Una, per avere, diciamo, una massa critica economica sufficiente per la protezione dei salari più bassi, ha ridotto per circa un anno i salari molto alti, di un livello medio-alto, e la sottrazione di questa quota è stata riversata sui salari più bassi. Questo ha creato in sostanza una protezione dei salari più bassi, e dai dati che Franco Manno inserisce nel suo capitolo si è verificato anche un fenomeno particolarmente interessante, ovvero una contrazione in termini quantitativi del bacino di lavoratori informali. Quindi ciò dimostra che un abbassamento dei salari eccessivamente alti, o degli stipendi o delle rendite eccessivamente alte, e fatte, rese produttive perché allocate laddove i salari erano invece più bassi, questo potenziamento dei salari più bassi in sostanza fa un effetto di trascinamento che erode il bacino del lavoro informale. Quindi questo, secondo me, è qualcosa di straordinariamente importante che è emerso dallo studio fatto da Franco Manno. Perché? Perché questo, in sostanza, modalità di intervenire durante la fase pandemica può diventare, come dire, una politica di redistribuzione delle ricchezze che possono in qualche maniera essere anche preventive per eventuali successive crisi pandemiche con la stessa incisività che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni. Sì. Beh, questo è un tema molto importante, quello che tu hai spiegato ora, Francesco, e che si lega appunto a una questione che rimane l'incognita per il futuro, che tipo di politiche sociali, no, e di protezione, di ridistribuzione della ricchezza manterranno o porteranno avanti i governi nei prossimi anni, no? Che anche in fin dei conti la riflessione che faceva anche Daniele riguardante il lavoro online, no? Il telelavoro. Beh, insomma, queste sono questioni su cui torneremo sicuramente a parlare. Voglio ringraziare, e approfitto anche così per salutare i nostri ospiti di questa prima parte del programma di Zibaldone, ossia Francesco Carchedi, che ha curato il volume Così lontani, così vicini, italiani all'estero per lavoro nel biennio pandemico da Covid-19, uscito da pochissimo per i tipi di Futura Editrice, e voglio salutare anche Daniele Comberiati, che appunto ha scritto il capitolo sulla Spagna e che è stato in passato già molte volte nostro ospite. Francesco e Daniele, grazie di essere stati con noi. Grazie a voi. Vida, ¿qué es lo que me pasa esta tarde? Te miro y es como la primera vez. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? No quisiera hablarte. ¿Qué pasa pues? Eres la frase amorosa que nunca cambias. No cambias más, no cambias más, no cambias más. Eres mi pasado y mi presente. Nunca más. La que siempre me está inquietando. No cambias más, yo tengo pruebas. Siempre me atormentarás con promesas. Pareces el viento que trae violines y rosas. Caramelos, ya no quiero más. Muchas veces no te comprendo. De rosa y violines, esta tarde no quiero que me hables, porque tan solo lo siento en mi alma cuando me traen amor de verdad, no cuando mienten. Y luego se verá. Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Ese es mi destino. Hablarte. Hablarte como la primera vez. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? No, no digo nada. ¿Qué pasa? Es la noche que habla. La romántica noche. No cambias más, no cambias más, no cambias más. Tú eres mi sueño prohibido. Nunca más. Mi dulce esperanza. Yo sé muy bien lo que tú sientes, ya me lo explicaste bien, no hay más que hablar. Mirándote, vi en tus ojos la luna y en tu canto el grillo. Caramelos, ya no quiero más. Si no estuviera, jugaría a inventarte. La luna y los grillos normalmente desvelan mis noches. Pero yo quiero dormirme soñando con ese hombre que sepa sentir, que no hable tanto y sepa amarme al fin. Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. sicuro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, tan solo palabras hay entre los dos. ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras. ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras. Amor, ¿qué pasa? Palabras, palabras, palabras. ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, tan solo palabras hay entre los dos. Eh sì, parole, parole, parole, insomma, siamo tornati di nuovo ascoltando Mina, ma non in realtà la voce di Mina Banzo, ma quella di Silvana Di Lorenzo, perché insomma con questo brano, dopo aver ascoltato Mina sì, prima invece cantare in catalano, ora siamo entrati nella rubrica che ci accompagna dall'inizio di questo 2023, una nuova rubrica che è quella appunto De Italia Otra Parte. Sì, De Italia Otra Parte, perché ci è venuta nostalgia, come ho detto varie volte, di L'Italia canta in spagnolo, e abbiamo cercato di dare un po' l'altro punto di vista, quindi le versioni cantate da interpreti stranieri di grandi canzoni italiane, e effettivamente parole parole, diciamo che rientra in pieno nella descrizione di grandi canzoni italiane. Immagino sia stato un successo immediato. Immediata sicuramente è stata questa cover, perché il brano uscì nel 1972 in Italia e fu coverizzato quasi all'istante in spagnolo da Silvana Di Lorenzo, che peraltro era italo-argentina come molti argentini, ma aveva anche passato una parte della vita a Napoli. E accompagnata, perché ovviamente una delle caratteristiche più importanti di parole parole, non c'è bisogno di sottolinearlo eccessivamente, è il dialogo, l'alternanza fra la voce maschile e quella femminile. Potrei fare una battuta facilissima e dire che accompagna Silvana Di Lorenzo Alberto Lobo, traducendo, no, però si tratta dell'attore argentino Osvaldo Brandi. E devo dire personalmente, non possiamo dire che questa versione sia sciatta o mal riuscita, però effettivamente insomma, Mina, diciamo che quando si interpreta un classico di Mina, la possibilità insomma di uscirne non con le ossa rotte, però insomma senza raggiungere l'originale, sono molto alte, ecco. Assolutamente, ma anche devo dire che insomma il buon Osvaldo Brandi, ecco, comparato con Alberto Lupo, insomma. Ma forse siamo noi che siamo troppo abituati all'originale, può essere che per magari ascoltatori argentini, diciamo, più attempati di noi, cioè persone che magari l'hanno ascoltata in diretta, giovani. Ecco, esatto, l'hanno ascoltata in gioventù, possa essere una specie di gusto acquisito, e magari trovino strano l'originale italiano, che invece noi siamo nati dopo, ma ci ha accompagnato fin da subito, perché sono quelle canzoni che erano letteralmente nell'aria. Eh sì, noi andiamo avanti, però visto che quest'oggi abbiamo altre canzoni cantate in spagnolo di Mina, è un piccolo omaggio anche a Mina. Andiamo con questa, vediamo se la riconoscete nella sua versione in spagnolo. Las buenas fachas, deportivas vivarachas. Son las muchachas que toman el sol, pero hay una que toma la luna. Tintarela di luna, paliducha te has quedado, porque siempre estás de noche, como gato en el tejado. Cada vez que hay luna llena, tú te pones cándida. Tintarela di luna, que te has vuelto delicada, como flor de invernadero, de la noche enamorada. Cada vez que hay luna llena, tú te pones cándida. Tin, tin, tin, baños de luna, tin, tin, tin, mágica luz. No existe ninguna tan cándida como tú. Tintarela di luna, paliducha te has quedado, porque siempre estás de noche, como gato en el tejado. Cada vez que hay luna llena, tú te pones cándida. años de luna, tin, tin, tin, mágica luz. No existe ninguna tan cándida como tú. Tintarela di luna, paliducha te has quedado, porque siempre estás de noche, como gato en el tejado. Cada vez que hay luna llena, tú te pones cándida. Cada vez que hay luna llena, tú te pones cándida. Cada vez que hay luna llena, tú te pones cándida. E ovviamente era Tintarella di Luna nella versione di José Guardiola e sua orchestra, Baños de Luna, appunto in spagnolo. Banzo, Pepe Guardiola, il crooner de España, una versione proprio, insomma, anche questa fatta subito dopo la versione originale in italiano. Siamo nel 1960. Sì, anche qui effettivamente è una versione molto gradevole, però rimango legato all'originale. Comunque qui torniamo un po' anche a una cosa che ci piaceva fare ai tempi di Italia Otra Parte, sottolineare di piccole differenze del testo, perché ovviamente non si può tradurre tutto alla lettera con la metrica, non avrebbe senso. E la Tintarella color latte che diventa paliduccia te has quedado, cioè sei rimasta pallidina. E a me questa traduzione l'ho trovata deliziosa, cioè per me vale la pena averla ascoltata solo per questo piccolo dettaglio, che è molto bello perché arricchisce effettivamente, non potendo come ho detto tradurre letteralmente, bisogna fare dei cambiamenti, e a volte questi cambiamenti apportano qualcosa, sono un valore aggiunto. Poi effettivamente gli ascoltatori spagnoli dell'epoca sicuramente non si ponevano il problema. Comunque è una canzone che è stata coverizzata moltissime volte anche negli ambienti più insospettabili, perché ad esempio noi fissati dell'underground, musica anche rumorosa, noise, ricordiamo una cover dei Melt Banana all'inizio degli anni 2000, un gruppo giapponese. Cioè, la voce era la voce tipicamente infantile dei Melt Banana, diciamo che non era cavernosa, non era inascoltabile, però la resa era molto molto caotica e affascinante. Comunque, quando succedono queste cose vuol dire che una canzone è diventata un pezzo di immaginario, al punto che può arrivare, può, diciamo, certo, sconfinare in ambiti completamente alieni. Ecco. Certo, come un Viva Las Vegas cantato dai Dead Kennedys. Andiamo avanti e chiudiamo questa piccola, parte dedicata a Mina, cantata appunto in spagnolo da diversi artisti, con un ultimo brano. Non vi dico qual è, non vi dico chi lo interpreta, vediamo se lo riconoscete, soprattutto se magari anche a qualcuno di voi viene in mente in che film si sentiva questa canzone. Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año. Amor, te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. È una meraviglia, secondo me, questa versione che ci regala Luz Casal, Un anno di amor. Ovviamente Banzo era un anno d'amore di Mina. Direi che, insomma, la voce di Luz Casal ha reso comunque meravigliosa questa versione in spagnolo. Sì, sì, avevamo detto, beh, mi avevamo fatto sentire queste due interessanti versioni, però l'originale. E qui invece, secondo me, è legittimo insomma stabilire più o meno un pareggio, ecco, perché questa resa è veramente notevole. E prima parlavi di un film, però, Steven, sveliamo l'arcano, lo certo, tu? Certo, beh, Tacones Lejanos in spagnolo, in Italia tradotto come Tacchi a Spillo, un film di Pedro Almodóvar, insomma, con un grande Miguel Bosé all'epoca, ecco, e un film che appunto conteneva, Banzo, la cover di questa canzone. La voce di Luz Casal accompagnava proprio Miguel Bosé, che faceva un'esibizione da travestito. Ma un grande Miguel Bosé. Miguel Bosé, forse vuoi dire che adesso lo è meno, non so se ho colto bene. Beh sì, diciamo che insomma, stendiamo un velo pietoso. Qui in Spagna, ecco, per chi ha la bontà di ascoltarci in Italia, che qui in Spagna è noto per una serie di uscite molto discutibili, è più che altro un tertulliano, cioè partecipa a programmi, non so, e insomma ogni volta che apre bocca, ecco, se ne farebbe meno, ecco, diciamo che forse doveva concentrarsi di più sulla carriera artistica. Comunque, diciamo, una cover di Mina. Però è bello quando si creano queste dinamiche, Steven, perché è una cover della cover in realtà. Esattamente. Perché a sua volta la versione di Mina era una cover di un brano di Nino Ferrer, C'est irréparable, in francese, perdonate la pronuncia francese che è migliorabile, e comunque effettivamente è anche significativo di questo tipo di situazione che si è ripetuto alcune volte nella storia della musica pop, in cui una cover diventa più famosa dell'originale e viene a sua volta coverizzata, quindi si crea questa specie di meccanismo Matrioska, e questo è un caso da manuale, in effetti. Sì, ultima cosa da segnalare è che Almodóvar ha una grande passione da sempre per Mina, e quindi la versione in spagnolo è stata proprio scritta da lui. E tra l'altro, ultimo dato, se guardiamo appunto in questa versione gli autori dei testi, dei testi appunto in francese, italiano e spagnolo, insomma troviamo dei grandi nomi, perché troviamo Nino Ferrer in Francia con Gabi Verlor, Mogol e Alberto Testa in Italia e Pedro Almodóvar in Spagna. Insomma, voglio dire, il risultato finale di questa cover cantata da Luz Casal ha dietro alle spalle parecchie cose. Sì, è praticamente un dream team, diciamo, non c'era solo una grande interprete, però c'è tutto il team creativo in tutti i passaggi che ha subito la canzone, è sempre rimasto di altissimo livello. Baldone, perché dove saremmo noi Senza Leopardi, la rubrica di libri del nostro programma. Sì, avete capito che è arrivato il momento del libro della settimana. Quest'oggi parliamo di un volume pubblicato pochi mesi fa, nell'autunno del 2022, da Fandango. Le autrici sono Paola Di Lazzaro e Giordana Pallone. Com'è successo? Una Repubblica in crisi, parola per parola. Un argomento, Banzo, insomma, di cui c'è davvero tanto da parlare. E il libro di Lazzaro e Pallone è davvero di piacevole lettura, innanzitutto. È un libro che, come dire, parte da alcuni termini, no? Che sono anche i titoli dei capitoli, ad esempio Inciucio, Sindaco d'Italia, Primarie, Casta, Presidente Operaio, Fannulloni sul divano, né di destra né di sinistra, che hanno segnato, rappresentato il linguaggio politico, ma anche la società italiana, in fin dei conti, la comunicazione, non solo politica, degli ultimi tre decenni praticamente, no? E le autrici si domandano: com'è successo che l'essere semplicemente cittadini si è diventato l'unico elemento qualificante per avere responsabilità pubbliche e che politico sia diventato nel percepito comune un insulto? Com'è successo che i segretari di partito abbiano assunto più rilevanza dei programmi politici e che essere né di destra né di sinistra sia diventato un valore in cui riconoscersi? Ma anche com'è successo che si sia cominciato a parlare di taxi del mare riferendosi, come sappiamo, alle imbarcazioni di fortuna utilizzate per attraversare il Mediterraneo, e che un ministro dell'interno, ovviamente in riferimento a Salvini, i Salvini del 2018-19, sostenesse il diritto di difendersi da soli con le armi. Insomma, ci sono davvero tanti spunti non affatto banali in questo libro di Paola Di Lazzaro e Giordana Pallone, che ci fa riflettere in fin dei conti su quella che è stata la storia della Seconda Repubblica, insomma, il cambio del linguaggio da quello che un tempo si chiamava, e ne parlavamo anche poc'anzi, Banzo, con te fuori onda, il politichese, no? Le convergenze parallele memoria, insomma, di Aldo Moro, per intendersi, con un linguaggio invece che è quello che è soprattutto è entrato in scena dopo Tangentopoli, con il berlusconismo, e che ci sta accompagnando tutt'oggi, no? Cito ancora una volta le due autrici. La semplificazione del linguaggio, scrivono, è una semplificazione dei processi democratici della vita pubblica, e credo che questo, Banzo, sia uno dei punti veramente cruciali di questa riflessione, come non sia solo il linguaggio, appunto, che si banalizza, che si semplifica, che diciamo introduce, pensiamo anche al cambiamento che comporta una figura come quella di Umberto Bossi, oltre a quella di Silvio Berlusconi, per questa semplificazione del linguaggio intriso anche di insulti, di rozzezza, no? Di questa specie di linguaggio comune che voleva parlare come la gente nei bar. Ecco, ma tutto ciò in fin dei conti si traduce anche poi in una semplificazione dei processi democratici della vita pubblica, e come ben sappiamo le democrazie sono dei sistemi complessi che bisogna riuscire, no? A mantenere vive perché siano funzionanti. Steve, sto scalpitando, non volevo interromperti, non volevo interromperti nella esposizione, però ero veramente, stavo fremendo. Beh, effettivamente la semplificazione del linguaggio è evidente, indica secondo me un rimpicciolimento, una vaghezza dei concetti che ormai diventano queste etichette che vengono usate con facilità eccessiva, in modo del tutto irriflesso. E questa però, benché sia una dinamica che è cominciata prima di internet, perché stiamo parlando appunto del passaggio alla Seconda Repubblica, su internet ha avuto un livello di esaltazione incredibile. Adesso, tu prima citavi alcuni di questi lemmi, che peraltro adesso farò una cosa che non dovremmo mai fare in radio, cioè descrivere un'immagine, la copertina del libro, che vede un'urna elettorale stilizzata con alcune schede a forma di aeroplanino con parole scritte sopra, che sono Inciucio, Fannulloni e Casta, appunto. Appunto, dicevo, un'altra parola, ad esempio, non so se venga citata direttamente nel libro, però della quale c'è un uso ubiquo, è falsi buonisti, per esempio. Certo. E anche questo è un concetto che ormai, cioè, chiedi a chiunque lo utilizzi su internet con la bava alla bocca di dare una definizione. Poi effettivamente, diciamo che le persone quando parlano non devono essere linguiste, non devono essere in grado di spiegare per filo e per segno ogni parola che usano, però è anche vero, come citava citando Nanni Moretti in Palombella Rossa, che le parole sono importanti. E diciamo che benché questo riferimento fosse telefonatissimo, era anche un film che parlava di un tema attiguo, cioè una crisi ideologica, una crisi di valori, diciamo, individuale nel caso del film, però che diventa poi la crisi di valori di tutta la società, e perde la capacità di designare concetti in modo complesso. E fra tutti i termini che hai menzionato, cioè, sono per lo più tutti criticabili, però non riesco a reprimere un moto di disgusto con i taxi del mare, che mi sembra, correggimi se sbaglio, fossero nella retorica di Maio, di Luigi Di Maio, sì, sì. E poi di Salvini, che per, sì, che peraltro è sparito completamente. Salvini purtroppo è ancora con noi, dico, nella scena politica. Però ecco, Di Maio, dopo queste perle, o il partito di Bibbiano col quale poi si alleò, insomma, è sparito. E comunque, cioè, queste frasi sono slogan vuotissimi, e qui appunto io non ho ancora avuto modo di leggere il libro, però mi vengono in mente anche altri concetti strepitosi nella loro vaghezza, che non indicano necessariamente un crollo della coscienza democratica, però in qualche modo sono comunque spia di un degrado, come per esempio la definizione relativa al Movimento 5 Stelle di capo politico, certo. Inventata di sana pianta e indicante un ruolo che per tutti gli anni in cui è stata in uso corrente, adottata dai telegiornali, dall'informazione mainstream, era vaghissima. Era questo personaggio al quale veniva conferito questo potere, era di solito Di Maio, e infatti la vaghezza della definizione, secondo me, si rispecchiava anche nell'opacità dei processi decisionali della piattaforma Rousseau, se mi permetti, ecco. E qui mi taccio, perché, come vedi, appunto, avevo trattenuto l'intervento, ma è stato piuttosto impetuoso. Ecco, no, ma i termini in realtà che sono analizzati con una contestualizzazione storica e di comunicazione politica da Di Lazzaro e Pallone sono molti, dai ribaltoni ai non eletti dal popolo, dalle toghe rosse alla giustizia orologeria, dai professoroni a quelli con l'attico a New York, l'elite, i gufi, le gite in gommone, no? Con gli smartphone che si associano ai taxi del mare e i fannulloni sul divano che citavamo poc'anzi. Ma menzionerei anche, poi, per parlare anche della degradazione della politica, no? In questa neolingua che si è venuta coniando negli ultimi 30 anni, come per esempio, per fare un esempio concreto, il presidente della regione si sia impropriamente chiamato governatore, ma a volte anche declinato come sceriffo, cacicco, doge, viceré, oppure se pensiamo alla magistratura, soprattutto dal punto di vista di Berlusconi, come sia stata definita in più occasioni in modo dispregiativo, no? Dagli estremisti in toga, alle toghe rosse, al cancro da estirpare, sto citando letteralmente frasi di espressioni di Silvio Berlusconi, mentalmente disturbati, talebani, eversivi, metastasi della democrazia. Ecco, insomma, al di là poi del giudizio che si può dare sull'operato della magistratura in Italia, ovviamente questo non è un linguaggio consono a una democrazia matura. E vorrei chiudere con un ultimo appunto nel capitolo dedicato alla casta del libro di Di Lazzaro e Pallone, che ci fa anche capire come non sia appunto solo una neolingua, ma abbia a che fare anche con le trasformazioni della società, no? Ricorda che nel novembre del 2011, in un sondaggio che si fece, no? Quindi in un momento di profonda crisi e di inizio all'inizio di politiche di austerità si fece un sondaggio a partire dalla domanda insomma che cosa bisognava fare insomma per ridurre insomma i problemi che stava vivendo l'Italia, ma non solo l'Italia in quel momento. Ecco, la risposta che ottenne la maggioranza dei voti, ben il 61%, era la riduzione del numero dei parlamentari, no? Quando le alternative erano tagliare la spesa per ridurre le tasse, alzare le tasse, alzare l'età pensionabile, privatizzare, nazionalizzare, insomma, eccetera. Ecco, non era questo, ma era un problema che ovviamente è molto relativo, al di là poi della corruzione esistente nel sistema italiano. Ma insomma, Banzo, un commento telegrafico. Ed eccoci qua, perché effettivamente sì. Dopo questa riduzione, che non è corrisposta peraltro a una riduzione di budget, perché il problema erano appunto i nostri soldi, e in realtà sappiamo che il vero problema di questa manovra estremamente populista è la riduzione della rappresentanza. Comunque, visto che abbiamo citato Nanni Moretti e visto che mi stai veramente titillando e continuerei a parlare di questo tema per altri 20 minuti, volevo citarti un'altra espressione di Silvio che non è fra le sue più famose, però alla quale io sono molto legato affettivamente, perché mi è sempre sembrata ridicola: il killeraggio mediatico. Sì, vabbè. Che è anche abbastanza indicativo dell'uso casuale, fastidioso dell'inglese in italiano. Ovviamente la parola killer ormai è entrata in italiano, non la rimuoverei, però insomma, parole a caso, ecco. Assolutamente. Insomma, leggetevi questo: com'è successo una Repubblica in crisi, parola per parola. Loro sono Paola Di Lazzaro e Giordana Pallone. Il libro è uscito nel 2022 per i tipi della Fandango Libri. E noi continuiamo, perché ci stiamo anche avvicinando tra l'altro alla fine di questa puntata di Zibaldone, e troviamo, visto che parliamo di società, di politica, troviamo le nostre ultimissime. Giorgia Meloni, primo premier dopo 27 anni, visibile anche dallo spazio. L'esperta: anche i social media influiscono negativamente sulla percezione del proprio corpo. Il ministro Giorgetti: la carta igienica senza alcun valore legale, strumento per la crescita. L'Oceano Atlantico invaso dalle alghe brune dei sargassi. Barbare, incivili, la furia del sindaco di Firenze Nardella, che era sul posto. La Banca Centrale Europea tira dritto e alza i tassi di altri 50 punti base, portandoli al question time alla Camera, ma ammette: Credit Suisse, la seconda banca svizzera, è irregolare per le precarie condizioni igieniche. Reagiscono bene le borse. Milano, meno 25%. Mutui variabili più cari, anche del 224% in un anno. Con il rialzo dei tassi hanno stravolto le nostre vite. L'esperto: non affidarsi solo ai farmaci, ma agire sulle cause. Andare a dormire nel Congo e svegliarsi sempre ai Caraibi. Biden: faremo tutto il possibile per ridurre i prezzi. Entro i 27 anni i bambini saranno grandi e spesso nessuno paga. Non si ferma la spirale di violenza per la Champions League. Bacon al posto del guanciale e carta igienica anziché pecorino. È la gigantesca carbonara offensiva proposta dagli ultra dell'Eintracht Francoforte. Auto della polizia data alla brigata Wagner. Scontri, cassonetti rovesciati, adducendo motivi personali. Il ministro dello sport Abodi: sono tifosissimo del motorino, che se ci fosse stato sarebbe sicuramente in finale. Siamo qui ancora una volta, siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che sta parla fuori onda, occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda, Steven fa la domanda. Siamo qui ancora una volta, siamo sicuri che adesso si svolta. Parla fuori onda, occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Eh sì, la domanda la faccio, ma voglio anche salutare, cioè, lo approfitto dopo questo jingle, Dejan e Cane, tra l'altro Dejan, di cui abbiamo parlato la scorsa puntata nel rapporto Italia-Marzo 2023. Banjo, sono tornate le ultimissime del nostro Fausto, che ci mostrano, come sempre, insomma, una versione un po' diversa dei fatti dell'ultima settimana. Ci mostrano anche la Meloni visibile dallo spazio, ecco. Guarda, io quando ero bambino volevo fare l'astronauta. Adesso hai cambiato idea. È abbastanza comune. Diciamo che se questo è quello che mi aspetta, non rimpiango poi di essere finito a fare l'impiegato. Comunque, volevo dire che la carta igienica, come ci segnala il ministro Giorgetti, non ha nessun valore legale. Io in effetti, non so, io non ho mai usato la carta igienica per atti ufficiali. Sarà un po' come le azioni di Credit Suisse, no? Immagino adesso. Non lo so, però non c'è bisogno di dire per cosa usiamo la carta igienica di solito, ecco, c'è un po' quella conoscenza di base del mondo su Credit Suisse, non dico niente, perché insomma io l'economia e la finanza, ecco, ne so più di carta igienica, ho detto tutto. E invece c'è questo problema dei prezzi in crescita con Biden, che assume un impegno abbastanza, diciamo, deciso, ecco, questo aumento dei prezzi bisogna ridurlo entro 27 anni. Io adesso non è che voglio tirarla a nessuno, però Biden ha già una certa età, ecco, insomma, fra 27 anni ecco, dubito che si possano mantenere queste promesse, ancora meno essendo presidente degli Stati Uniti, quando ci sono al massimo due mandati. E poi chiudiamo con lo sport, ecco, che è sempre presente in Italia. C'è questa gigantesca carbonara offensiva degli ultra dell'Eintracht, e non è chiaro se offensiva si riferisca alla tradizione gastronomica italiana, siamo un po' noiosi su quell'aspetto noi italiani, o su una strategia che comunque non ha dato risultati, perché il Napoli è passato agevolmente, abbiamo e vincerà anche ai quarti e vincerà anche il campionato. Comunque torniamo alla musica, lasciamo lo sport, ecco, credevo stessi per dire vincerà anche la Champions, no. E qui insomma qualcuno più scaramantico, insomma il campionato ormai è sentenziato, ecco. Dai, torniamo alla musica in questi ultimi minuti di Zibaldone, andiamo a sentirci una canzone di qualche tempo fa che è bellissima. Nina, di te ricordi quanto che avemo messo andare su sto tocco detto insieme a fare l'amor. Siani affari morosi a strenzer la franco su franco e mi chiesero stanco ma non te volevo toccar. Tomare che pronto ava quando che se sposemo e il prete che raccomandava che non se doveva peccare. E dopo se siamo sposai che quasi non che credeva te giuro che a me me pareva fare fin che fosse un peccato. adesso ti spetti un figlio e ancora vita se dura a volte me ciapa e ha paura di aver dopo tanto sbagliato. Amarsi non se no un peccato, manco se un lusso de pochi, e intanto di Nina ti spetti e mi so disoccupare, e intanto di Nina ti spetti e mi so disoccupare. E questa è Nina ti te ricordi, forse la canzone più conosciuta di Gualtiero Bertelli, con cui vogliamo praticamente chiudere questa puntata di Zibaldone, un piccolo omaggio a un grande cantautore, uno dei grandi maestri della canzone d'autore italiana, perché Gualtiero Bertelli domenica scorsa è stato qui a Barcellona e ha suonato nel Festival Barnasanz, Cose di Amilcare, con un concerto dove ha raccontato appunto la sua Venezia. Ecco, avete ascoltato questa canzone, una delle tante scritte appunto in dialetto, in lingua veneta, da Gualtiero Bertelli, una canzone tra l'altro che è stata anche poi incisa da Francesco De Gregori e Giovanna Marini, ma una delle canzoni che riporta anche la centralità e la ricchezza delle lingue della penisola italiana. Banzo. Sì, un commento velocissimo, appunto parlavamo del lessico politico poc'anzi, e trovo veramente grave che le lingue locali italiane siano state patrimonio esclusivo della Lega ai tempi Nord, che ne faceva uso, diciamo, esclusivamente a fini discriminatori, quando in realtà le lingue locali italiane sono espressioni di ricchezze, di varietà culturale. Ecco, io amo molto il romagnolo, quindi effettivamente sono molto addolorato dal fatto che questo patrimonio nostro non venga usato per esaltare la nostra varietà e ricchezza culturale, ma semplicemente per discriminare chi è nato altrove. Ecco. Gualtiero Bertelli è attivo dai primi anni 60, lui classe 1944, nato da una famiglia operaia veneziana, il padre lavorava all'arsenale di Venezia come operaio, abitante della Giudecca, fondò giovanissimo il Canzoniere Popolare Veneto, pubblicò dei dischi a metà anni 60 con la famosissima etichetta dei Dischi del Sole, scrisse canzoni che poi, ecco, vennero riprese anche da altri cantautori, come Vedrai com'è bello, proprio da Bruno Lauzi, che ebbe molto successo. Insomma, una traiettoria lunga, soprattutto molto impegnata negli anni 60 e 70, poi degli anni dedicati anche alla politica attiva, fu assessore e consigliere comunale a Mira, dove vive da ormai più di 40 anni Gualtiero Bertelli, per il Partito Comunista. No? Andiamo ad ascoltarci una canzone che ci riporta non solo alla Venezia operaia che ha cantato così tanto Bertelli, che veniva da una famiglia operaia, ma una Venezia che appunto già quando la cantava in queste canzoni, che erano anche una cronaca, Gualtiero Bertelli, si stava già convertendo in quella che tutt'oggi è una città di cartone, una città turistica che ha perso praticamente 2/3 degli abitanti nell'ultimo mezzo secolo. La canzone si chiama Stucchi, anche questa è in lingua veneziana, in dialetto veneto, ma secondo me la capirete, è molto bella, è la storia di una lotta operaia negli anni 50. Stucchi c'è un paese in fondo è a Giudecca, coi muri a picolon che par che non resista, guardando io così te fa la meraviglia che il possa essere sta e il pan della famiglia e gli ha dato a lavorare. a tanta e tanta gente che se a consumar e non se resta niente. La rabbia che te sera e a goeco ti ricordi speranze e paure in sti brutti momenti quando che yoga fatto un sogno, una speranza, barconi che arrivava col grande l'abbondanza e lavoro tanto e lavoro e appagasi al sicuro te mase na sto muin la farina che se oro un oro mal goduo dentro a sti casarmoni col gran spacca nell'aria che entra nei polmoni bianchi semo restai più bianchi di farina quando che te gadito e a fine se vicina no ti vuoi crede né ti né tutti st'altri dentro vesse serai sperando in tutti i santi più dei 50 giorni vengo mattina e sera te porto da cambiar e l'aria di atto fameggia un giorno quei barconi fermi e intristi sa impegno da nuovo in acqua e se tornai ma s'ora no che c'era i sacchi de farina ma tutti gli operai ognunque so fameggia e tanta, tanta gente da riva ne si cava coraggio più isteduri se vostra è a vittoria speranze ancora e dopo a uno tutti se ga trova un lavoro e il gas sarà sto stucchi adesso tutti i giorni ti va fin a Marghera ti te abitua ma è stata dura e duro anche a parmi vederte sempre manco e averte qua vicino sempre più stanco. Si intitola Stucchi, questa canzone di Gualtiero Bertelli, secondo me bellissima, di una potenza incredibile, no? Stucchi appunto questo palazzone, questa impresa nella Venezia degli anni 50 che appunto poi chiuderà e racconta in versione cronachistica Banzo proprio anche la protesta, no? Degli operai che si rinchiusero nella fabbrica durante praticamente 2 mesi e che poi utilizzarono i barconi che venivano usati dalla fabbrica per portare il grano per fare una prima grande manifestazione nel canale della Giudecca, no? E una Venezia che appunto oggi ci sembra così lontana. Sì, ma anche le lotte operaie, comunque è un discorso che mi rendo conto ho fatto spesso nelle ultime puntate di Zibaldone, perché quando ci sono questi ritorni al passato, diciamo, parliamo del contesto sociale e politico del nostro paese più o meno fra l'inizio della Prima Repubblica e gli anni Ottanta, che sono stati l'inizio della grande ideologizzazione, sembra di parlare veramente di un altro universo, ed è anche per quello che ci piace tornare a raccontare queste storie, non per nostalgia, ma per ricordare appunto che le cose non sono sempre state come le stiamo vivendo adesso, come le abbiamo vissute negli ultimi 30 anni o 40 anni. Ecco. Esatto, come ci erano raccontate appunto Paola Di Lazzaro e Giordana Pallone in Come è successo, il libro di cui abbiamo parlato pochi minuti fa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zibaldone. Ci salutiamo con un ultimo brano di Gualtiero Bertelli, un brano che ha segnato alla fine degli anni Ottanta il suo ritorno sulle scene dopo un periodo di silenzio, no? Dopo gli anni 60 e 70, come altri cantautori, penso qui anche a Gianni Siviero, a cui abbiamo dedicato un po' più di un anno fa, o due ormai, adesso non ricordo bene, due anni fa credo, una puntata speciale di Zibaldone. Ecco, Siviero attaccò la chitarra al chiodo e smise di cantare in un'epoca, insomma all'inizio degli anni Ottanta, in cui tutto stava cambiando, si chiudeva un'epoca, si chiudeva il lungo 68. Ecco, Gualtiero Bertelli si dedicò alla politica attiva, come ricordavo prima, e poi ritornò alla canzone con un album nel 1988, Barche di carta, che fu tra l'altro premiato con la targa Tenco. Al Tenco aveva partecipato fin dagli anni 70 ed è stato invitato anche nella scorsa edizione, quella del 2022. È un Gualtiero Bertelli che ormai ha 79 anni, continua a fare musica e sta lavorando a un nuovo disco che uscirà, da quanto ha raccontato negli ultimi giorni, prossimamente. Noi quindi ci salutiamo con Barche de Carta, la canzone che dà il titolo a quell'album del 1988 di Gualtiero Bertelli, e non vi diamo appuntamento alla prossima puntata perché Zibaldone se ne va in vacanza. Come sapete, tra poco c'è la Semana Santa in spagnolo, la Settimana Santa, Pasqua, ecco, che è una settimana di vacanza. Noi abbiamo deciso di prendercene due, quindi ci ritroviamo alla metà di aprile, rientro dopo le festività pasquali. Godetevi questa canzone di Gualtiero Bertelli, buon fine settimana, buone settimane, e ci ritroviamo tra una ventina di giorni approssimativamente. Niente di più, niente di meno, forse sì, quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, che alle 19.55 diceva tutti i venerdì: prima gli italiani parlavano con più cognizione di causa. Sì, effettivamente. Ciao Banzo, a presto, buon venerdì sera. Barche di carta, lui è Gualtiero Bertelli. Barche de carta, i sogni diventano putei. I navega mari più calmi, fondi d'oschei. A Spencer ripensa sorrisi che nasce co poco. I navega dritti col sol, poco tira siroco. O barche de carta se svoia dall'alba al tramonto. Se sbrisa co quattro parole in cao al mondo. Se incontra fiori e farfalle dei miei colori, se tocca coi occhi tutti i più grandi tesori. Do fogli qualunque te basta, do fogli de fantasia, e come un colombo che porta via l'aria che ti respiri, l'aria che ti respiri. se che domanda vittorie. Si gioca a guerre e battaglie e poche ore. E dopo un sigaro che non spiega ragion o torto, con un succhiar dei sospiri se torna nel porto. Al mar che di carta non serve di porti di pietra, non serve guardiani e portoni che sera di sera. Lo dei di acqua butai e piova te basta, e questa gran voce d'indar noi a te assa. Do fogli qualunque te basta, do fogli le fantasia, e come un colombo che porta via l'aria che ti respiri, l'aria che ti respiri. Carta se barche che sana su mar in tempesta che notte ti assa dormire, marubio de voce che nome se pietà dentro, e più che il me squassa e più il me fa contento. Do fogli qualunque te basta, do fogli de fantasia,